Palla Spicchi di Dario Ricci. Ben ritrovati qui a Palla Spicchi, dodicesima di Serie A. Beh, clima quasi balneare, perché lo vedo dalle maniche corte che sfoggiano in redazione Giorgio De Luca e in regia Paolo Corleoni, ma anche buona parte della Serie A di fatto sta andando in vacanza, perché lotta a retrocessione pressoché decisa dalla sconfitta all'ennesima di Biella, posizioni per i playoff ancora da chiarire, e rimane però aperta ancora la sfida per l'ottavo posto, visto il blitz, l'ennesima impresa di Caserta quest'anno a Venezia, e continua la personalissima campagna per fare di Pino Sacripanti l'allenatore dell'anno. Staremo a vedere, che nessuno si offenda. Intanto in campo a Varese, nel big match Varese e Milano, 6-2, ma fra poco andremo proprio a Masnago per sentire in diretta gli aggiornamenti. E nel big match delle 12, Sassari asfalta Roma, una Roma decisamente col fiatone, quella di questo periodo. Allora, subito i risultati col banco di Sardegna. Sassari che batte la CEA Roma 105-87, facile vittoria del Montepaschi Siena sull'Ocnoplast Bologna 75-55, 88-81 il successo della Scavolini Banca Marche Pesaro sulla Vanoli Cremona, altrettanto netto la vittoria della Lenovo Cantù sulla Sutor Montegranaro 85-61, la Juve Caserta, come dicevamo, vince 88-85 sul campo della Umana Reyer Venezia. Vittoria in trasferta anche per la Trenkwalt Reggio Emilia sul campo della City Gas Avellino 78-69, 101-94 la vittoria dell'Enel Brindisi sull'Angelico Biella, per una classifica che vede Varese a quota 40, Sassari che allunga su Roma portandosi a 38, Capitolini che restano a 34, Milano, Siena, Cantù e Reggio Emilia a quota 32, Venezia 28, ad oggi l'ottava e ultima qualificata ai playoff, incalzata però proprio dal la sorprendente Caserta quota 26, mentre più staccate a quota 22 Cremona, Montegranaro, Avellino e Brindisi, Bologna e Pesaro a 18, chiude Biella a 12. Ormai manca solamente la matematica a consacrarne la retrocessione. Partiamo però subito dal big match di serata, Varese-Milano, in diretta Roberto Nardella. Buonasera Roberto. Buonasera, qui direttamente dal Palasport di Masnago. Tu parlavi della temperatura, io direi sui 0-24, anche qui a Masnago, però la temperatura è stata collente, chiaramente Palasport cremito in ogni ordine di posto. Milano era partita bene con il 6-2, di cui avevi ricordato qui una persona di trasmissione, poi però un istante fa è arrivato il sorpasso firmato da Era con l'Opacetta, che diventa ora invece di nuovo il 10-9 per Milano. Questa partita assolutamente da una parte Milano insistentemente da Borussis e da Lenkford con Fortis e Gentile in Giuseppe Perolizia, dall'altra parte invece Varese si sta affidando in toto a Mike Green, già 7 punti per lui, va a prendersi i primi minuti di riposo, entra proprio in questo istante in campo Colonnara con i tiri liberi proprio del numero 33 della Cimmerio Varese, che va a riportare la partita in perfetta parità. Grazie Roberto. Beh, avete sentito, appena liberi per Varese che gioca in casa, silenzio assoluto, e allora anche la voce di Roberto ci è arrivata decisamente più nitida. Big match che dirà qualcosa per la classifica, molto di più per quello che è il senso e che sarà il senso della post season. Intanto Dunston sotto canestra comincia a carburare, direi. Andiamo subito a Siena invece, facile il successo della Montepaschi Siena sull'Ocnopast Bologna 75-55, Massimo Sollazzini però se non sbaglio è stata anche la giornata dell'esordio di Christmas in casa senese, un'addizione importante proprio in chiave playoff, no Massimo? Sì, diciamo un Natale che comincia gradualmente, vogliamo fare questa battuta, di Ante Christmas ha cominciato con due punti, due rimbalzi, due palle perse, un assist, una percentuale che non è encomiabilissima, insomma ha avuto un 1 su 6 dal tiro, all'inizio è sembrato anche un po' avulso, subito prima di andare a canestro, all'unico canestro che è riuscito a realizzare, ha avuto anche sembrato avere un getto di stizza verso un compagno che non gli aveva passato la palla, poi è riuscito e dopo ha servito, come detto, anche un buon assist, però devo dire che per ora si è visto molto tra le righe, probabilmente comunque era quello che coach Banchi alla fin fine si aspettava per stasera, in un match che probabilmente era l'ideale per farli così prendere confidenza con la maglia e con l'ambiente del Palaestra di Siena, non avendo di fronte obiettivamente una squadra al top della caratura e anche della forma, anche se va detto la linea verde dell'Occhio. Ecco, come vanno questi ragazzi? Ma diciamo si sono spesi fino all'ultimo, tant'è vero che se è vero che Siena ha chiuso su più 20, 75-55, così come aveva fatto alla fine del terzo quarto, quando erano andati al tramonto sul 59-39, ma nell'ultimo quarto Bologna si è riportato sotto addirittura fino a un meno 9 che stava quasi per far rimettere a posto i dubbini agli spettatori che già iniziavano ad andare. Certo, per evitarsi il traffico, insomma. Si è visto un buon poeta in certe fasi della gara, a segno, a referto è andato soprattutto Jacob Pullen, poi in effetti le marcature sono state molto ripartite tra i giocatori di Bologna, nessuno grande prova di spicco obiettivamente. Certo, insomma, partita balneare che serviva soprattutto a Siena per cominciare a innestare Christmas e anche per rimettere due punti in cascina che di questi tempi, diciamo dalla finale di Coppa Italia in poi, sono merce piuttosto rara per i biancoverdi. Grazie a Massimo Sollazzini da Siena. Andiamo subito ad Avellino dal nostro Carmelo Presti Simone, perché vittoria esterna della Trenkwalter Reggio Emilia, che è lì sempre agganciata al gruppetto a quota 32 e sullo stesso pianerottolo ci sono dirimpettai che si chiamano Milano, Siena e Cantù, quindi insomma tanto per dare il livello del campionato che stanno facendo i reggiani. Carmelo, a te, buonasera. Eccoci qua Dario, buonasera. Guarda, siamo sotto il pullman della Trenkwalter Reggio Emilia. Spero non letteralmente, Carmelo, mi raccomando. Assolutamente, guarda, i giocatori, i compagni di squadra di Michele Antonotti stanno bussando al vetro perché lo vogliono far salire immediatamente, quindi rubiamo subito una battuta a Michele, insomma, ala di Reggio Emilia che ha battuto qui ad Avellino al Pala del Mauro la Sidigas 69-78, un successo importante perché oramai i playoff li avete conquistati aritmeticamente, potreste arrivare quarti, Michele. Sì, è un momento importante, la pallacanestro reggiana sta diventando una realtà importante per il panorama italiano di basket, quindi credo che questa vittoria faccia capire che siamo una squadra solida, siamo una cooperativa del canestro, tutti danno quel che serve nel momento giusto. Portiamoci qualche mese avanti, Michele, europei in Slovenia, Gallinari purtroppo si è fatto male, ecco, a questo punto la tua candidatura è assolutamente insomma importante, forte. Ma sì, si lavora per la nazionale, è il sogno di tutti, è l'obiettivo di tutti, ci proviamo, insomma dispiace per Danilo, abbiamo fatto tutti in bocca al lupo perché è un cardine della nazionale, però bisogna andare avanti, bisogna cercare tutti di dare un mattoncino perché la maglia azzurra è un onore. Varese Milano si sta giocando, chi vince? Pronostico secco. Pronostico secco Milano. Milano, ok, grazie Michele, scappa sul pullman. Scappa Michele, se no qua e non prendetevela col buon Carmelo Presti Simone, che per portare gli ospiti al microfono di Palla Spicchi fa questo ed altro. Grazie Carmelo per questo prezioso contributo che ci arriva da Avellino. Stefano Valenti, a proposito di campane, ma allora tu la metti la firma sulla mia personalissima campagna per Pino Sacripanti, allenatore dell'anno? Buonasera Stefano. Ciao, buonasera, guarda, qui non ho ospiti in diretta, ma l'ospite è la Juve Caserta, ha compiuto veramente l'ennesima prodezza, imbattuta da quando ha perso il suo centro titolare a Kindele, insomma, 2-2, e ha vinto la partita che comunque tiene viva la corsa ai playoff, perché è ovvio che Venezia è rimasta a 28 e quindi adesso è Venezia contro Caserta. L'unica notizia buona per Venezia è che ha difeso la differenza canestri perché ha vinto di 6 l'andata, però questo 88-85, ripeto, racconta ancora la stagione folle di Caserta, che alla fine ha vinto grazie a due triple decisive di Gentile e Morbente, quindi trazione italiana, e con un grande, una grande partita al migliore d'Italia del centro Jelovac, che ha segnato 25 punti in 31 minuti con 6 rimbalzi, 9 falli subiti, 11 su 12 liberi, che insomma per un centro è sempre una notizia. Va detto, va ricordato che Venezia non ha avuto in campo Kiki Clark, che ha avuto un risentimento muscolare durante il riscaldamento e non è stato utilizzato da Mazzon, e va anche detto che purtroppo l'arbitro Chiari è stato colpito da un oggetto 8 minuti dalla fine all'orecchio sinistro, nulla di grave, nulla di grave, però il gesto, ha proseguito la partita, però Venezia rischia squalifica. Insomma, ci saranno le indagini, gli accertamenti del caso, ma via questi stupidi dai nostri parquet, almeno quello risparmiamocelo. Stefano, rimani a farci in compagnia un attimo, adesso sentiamo le informazioni per chi viaggia, poi torniamo insieme, abbiamo pure un ospite parecchio stuzzicante. Palla spicchi. Eccoci qua di nuovo insieme. Allora, Stefano Valenti, te l'avevo promesso, non avresti aspettato in vano. E allora, dall'altra parte della cornetta del telefono, in diretta qui a Palla Spicchi, Gigi D'Atome. Ben trovato, Gigi. Buonasera a tutti. Beh, allora, l'onore della prima domanda, visto che è stato così paziente, lo lascio a Stefano Valenti. Gigi, è tutto tuo, Stefano. La Sardegna ha fatto l'effetto della criptonite per Superman, diciamo così. Oppure, se la verità è che Roma, che ha avuto molti complimenti strameritati durante la stagione, secondo me stanno rileggendo un po' la rassegna stampa dell'estate scorsa, forse la Virtus non fa il campionato, tornano un po' sereni e poi fanno lo scherzo nei playoff. Ecco Gigi, dici un po' com'è che oggi è arrivata questa batosta in terra sarda. Ma sicuramente ci sta a perdere a Sassari, che è la seconda forza del campionato, non nei modi in cui abbiamo perso oggi, dato che siamo stati sempre a rincorrere e già da inizio quarto quarto era abbondantemente finita la partita. Mi dispiace perché dopo appunto Varese, lo stesso è stato lì per cercare di mettere i bastoni tra le ruote alle due squadre che hanno condotto il campionato, hanno avuto meno alti e bassi, diciamo, però abbiamo fatto sicuramente due partite brutte, e se volevamo provare ad essere noi la seconda forza del campionato, abbiamo visto con i nostri occhi che ad oggi non ce la meritiamo. Quindi il nostro obiettivo durante l'anno si è sempre spostato un pelino, abbiamo sempre cercato di alzare l'asticella, da provare a entrare nelle prime 8 per fare la Coppa Italia, a cercare di entrare nelle prime 4, a essere terzi. Adesso abbiamo provato, perché per arrivare ai secondi dobbiamo per forza di cose vincere Sassari, abbiamo provato a alzare ultimamente l'asticella e abbiamo capito che già essere terzi è qualcosa di molto importante che abbiamo fatto. Questo non vuol dire che dobbiamo accomodarci, ma vuol dire che dobbiamo difendere questo posto con tutte le nostre forze in queste ultime 3 giornate che ci restano, per iniziare i playoff e far vedere che non siamo stati a caso per tutto il campionato in queste posizioni in classifica. Certo, protagonisti. Sento intanto le voci di casa, perché se non sbaglio sei rimasto ad Alghero, no? Per salutare i tuoi. Sì, ma io sono di Olbia, Alghero. Ah, scusa, ecco, è vero. Però insomma sei rimasto in zona per ecco, vedi, per un po' di cannonau e di porcetto. Senti, per quanto riguarda il tabellino, vedo addirittura 7 uomini in doppia cifra per Sassari, con 10 punti per Drew Gordon. Ecco, 17 proprio per te, 4 su 10 da 2, 3 su 4 da 3 punti. Quello che ti chiedo, Gigi, c'è la sensazione che nel gruppo, nello spogliatoio, qualcuno anche involontariamente sia appagato di quanto di straordinario finora avete fatto, o avete ancora la fame giusta per la post season? No, la fame ce l'abbiamo, perché vogliamo arrivare ai playoff, che sarà il momento più eccitante della stagione, è il momento per cui abbiamo lavorato tutta la stagione. Questa valutazione che hai fatto tu è qualcosa che dobbiamo riflettere ognuno di noi dentro se stesso, guardarsi dentro e capire se appunto ci sentiamo soddisfatti o abbiamo ancora qualcosa da dire, perché sicuramente nessuno ci dirà niente anche se dovessimo finire ai quarti. Però sta a noi far vedere che siamo un gruppo speciale, fatto di persone speciali, che sicuramente ha svolto il proprio compitino durante la stagione abbondantemente, però se vogliamo fare qualcosa di importante, dato che abbiamo le possibilità, allora bisogna continuare con la mentalità e con la voglia che abbiamo dimostrato tutto l'anno. sia a queste ultime tre partite dei campionati sia ai playoff, dove sarà veramente molto duro giocare ogni due giorni, però compattandoci e giocando come abbiamo fatto per larghi tratti della stagione possiamo dire la nostra. Gigi, proprio 30 secondi e la domanda è secca: se chiama l'NBA le fai le valigie? Ma sono cose che ho, a cui ho già risposto, nel senso che adesso mancherebbe rispetto ai miei compagni, ai tifosi, a chi mi paga, alle mie maglie, insomma, parlare del futuro. Io spero e voglio finire la mia stagione, la stagione di Roma, al meglio, e poi ci sarà il momento opportuno per fare queste valutazioni, che non è adesso. Assolutamente, allora aspettiamo questa post season e poi dopo gli europei eccetera eccetera si ragionerà anche dell'altra sponda dell'oceano. Grazie a Gigi D'Atome e in bocca al lupo per il resto del campionato. Grazie anche a Stefano Valenti. Carlo Genta, domani alle 14, intanto siamo tutti convocati da te, lo ricordo l'appuntamento. Ti chiedo proprio una ben ritrovato, ti chiedo proprio una pennellata su questo Varese-Milano 29-17 quando siamo per i varesini a meno di un minuto dall'intervallo lungo. Cosa può dire su non tanto per la classifica adesso, anche se poi è importante prendere una piazza buona per la post season, ma soprattutto sul medio termine, Carlo? Ma questo campionato è impossibile da leggere, l'abbiamo già detto mille volte. Questa partita può avere un senso importante di classifica, ma soprattutto importante in termini di segnali, perché se Milano dovesse vincere a Varese manderebbe un segnale alla squadra che ha dominato la regular season. È chiaro che è un campionato, oggi Siena ha vinto, ma rimane un campionato senza padrone, e dunque vediamo, Milano deve dare continuità alla sua azione, che abbiamo visto ha avuto una lunga fase di vittorie in trasferta, poi lunghe pesanti debacle interne, quindi è chiaro che Milano deve dare un senso alla sua stagione. Vincendo a Varese darebbe un segnale a tutto il campionato. È ancora molto presto, la griglia dei playoff deve essere delineata, però ripeto, è una partita senza pronostico, ma soprattutto un campionato senza pronostico questo, Dario. Intanto primo tempo che finisce sul 29-20, ne riparliamo anche del big match domani alle 14 con Carlo Genta in tutti i convocati. Chiusura con il nostro amico Flavio Tranquillo, ben ritrovato Flavio. Buonasera. Beh, allora spendiamo questi due minuti per il caso del giorno, o meglio di ieri, l'infortunio a Kobe Bryant, stagione finita, forse 6, forse 9, forse un anno addirittura per ritornare in campo per il Black Mamba. A me lo sai una cosa, mi ha colpito Flavio, infortunio, stagione e finita, e Kobe che si presenta di fronte ai giornalisti e spiega che praticamente già iniziato mentalmente la fase di recupero. Questo veramente fa la differenza tra il giocatore normale e il super campione. Sì, assolutamente, oltretutto è l'ennesima conferma di un nuovo Kobe, come dimostra il fatto che già prima dell'infortunio fosse letteralmente salito su Twitter. Da un punto di vista di strategia comunicativa è completamente cambiato. Quello che non è cambiato è l'approccio ossessivo con la pallacanestro, e credo che adesso abbia davanti tanti mesi e un periodo non facile, però sarebbe davvero l'ultimo capolavoro in una carriera incredibile se riuscisse a tornare come Kobe Bryant. Che torni non c'è dubbio, che torni come Kobe non dico che c'è un dubbio, però chiaramente vogliamo tutti vederlo. Se c'è uno che può riuscirci è lui. Assolutamente. Ti chiedo anche, inevitabile il dibattito sulle cause, la sfortuna, la gestione del giocatore eccetera eccetera, è bene chiarire che minutaggi e cose varie se le decide Kobe lì da quelle parti, no? Intanto la risposta sintetica è sì, nel senso che non è stato certo un'imposizione, non è possibile fare un'imposizione a Kobe Bryant. In più ci sono ulteriori dinamiche interne di un certo tipo specifiche, e poi comunque dire giocava tanti minuti quindi si è fatto male è un collegamento che io posso capire possa essere fatto istintivamente, ma non ha alcun fondamento medico, non ha alcun fondamento atletico, è possibile, ma noi non lo possiamo sapere, quindi non potendolo sapere non è corretto proprio da un punto di vista metodologico stabilire questo collegamento. Allora Flavio, speriamo di trovare prestissimo Kobe Bryant, sicuramente più certa la tua presenza domenica prossima sempre qui a Pallaspicchi. Grazie per essere stato con noi, grazie anche a Giorgio De Luca in redazione, Paolo Corleoni in regia, io rimango ancora un po' a farvi compagnia col grande sport di Radio 24.